Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Bosco. Ciao Giuliana. Ciao Ilona. Come va? Molto molto bene, diciamo che in questa settimana purtroppo il mondo della musica è stato colpito da un gravissimo lutto, ma oltre a questa grandissima tristezza e disperazione però diciamo che siamo bene, siamo ancora vivi perlomeno, senza bene, ironie sì. varie ed eventuali. Ovviamente questo è Bosco, oggi martedì 23 se non sbaglio, sì martedì 23 gennaio, siamo di nuovo qui dalle 15 alle 17 per tenervi compagnia e il tema di questa settimana, un po' ispirate purtroppo dalla morte di Dolores O'Riordan, è canzoni contro la guerra, ma io direi proprio di entrare immediatamente nel merito, che ne pensi Giuliana? Assolutamente, partiamo da una canzone anche un po' di pace che è stata accusata di plagio, ma comunque l'autore è un vate che ha ricevuto un Nobel, al quale che è stato però rifiutato perché alla cerimonia di conferimento del Nobel lui non si è presentato, perché in fondo si parla di canzoni contro la guerra, si parla anche di un certo tipo di atteggiamento un po' fuori dagli schemi anche. Stiamo parlando di Bob Dylan, questa è una canzone arcinota, penso sia la canzone più famosa di Bob Dylan, è del 1962 ed è inserita all'interno dell'album The Free Will in Bob Dylan, che appunto è stato pubblicato l'anno successivo al 62. È un brano manifesto, diciamo, della generazione dei giovani statunitensi tra gli anni 50 e 60, quindi insomma nel mezzo del boom economico, ancor prima di appunto di guerra di Vietnam e guerra fredda, insomma. Quindi diciamo che è il ritratto immediato di una generazione. Stiamo parlando di Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E e questo era con un intro molto pazzesco della nostra base, però alla fine era appunto molto delicato, Bob Dylan con Blowing in the Wind. E il tema di oggi appunto, come abbiamo detto, è canzoni contro la guerra. Abbiamo cercato di fare un po' una cernita di quelle che sono tantissime ovviamente le canzoni contro la guerra, le canzoni della guerra, mi viene ad esempio Lili Marlene per i tedeschi, per dire, ce ne sono veramente veramente tantissime, abbiamo cercato di fare una cernita. Il prossimo brano, che è uno dei brani diciamo più famosi di Elvis Costello in The Attraction, è Oliver's Army. Oliver's Army, tra l'altro, si riferisce a, diciamo, Oliver Cromwell, e soprattutto si riferisce alla New Model Army che era stata istituita appunto per la guerra civile inglese. E praticamente il brano di Elvis Costello, And the Attraction, compare nell'album Armed Forces del 1979 e appunto rimane uno dei singoli più venduti nel Regno Unito, ed è stato praticamente per 3 settimane al secondo posto nella UK Single Chart. Non è l'unico che andremo ad ascoltare appunto che parla di della guerra civile inglese, ma ovviamente spazieremo tra Medio Oriente, Vietnam, perché ci sarà tantissimo Vietnam in questa playlist, ma soprattutto andremo a sentire tantissime robe diverse che arrivano da diverse parti del mondo. Andiamoci ad ascoltare appunto Elvis Costello and The Attraction con Oliver's Army. Have you got yourself an occupation? Oliver's Army is here to stay. Oliver's Army are on their way. And I would rather be anywhere else but today. There was a check on Charlie. He didn't crack a smile. It's no laughing parted when you've been on the murder mile. Only takes one itch to trigger, one more widow, one less white nigger. Oliver's Army is here to stay. Oliver's Army are on their way. And I would rather be anywhere else but here today. Hong Kong is up for grabs. London is full of abs. We could be in Palestine, overrun by a Chinese line, with the bars from the Mersey and the Thames and the Tyne. But there's no danger. It's a professional career, though it could be arranged. We're just the waiting. Churchill's here. If you're out of luck or out of work, we could send you to Johannesburg. Oliver's Army is here to stay. Oliver's Army are on their way. And I would rather be anywhere else but here today. And I would rather be anywhere else but here today. And E questo era Elvis Costello and the Attraction con Oliver's Army, che appunto si riferiva sostanzialmente all'arruolamento di giovanissimi per la guerra civile inglese. E questo brano, che apparentemente uno magari non ci pensa perché appunto è in inglese, dice di che cosa parlerà mai, è bello carino, tu sculetti, eccetera eccetera, e invece parla appunto di guerra. Ma non sarà l'unico brano che fa sculettare, che però parla di temi molto molto tristi e brutti. Come la vuoi ma perché la... Esatto, anche il ritmo, scusate questa indecisione, però non lo so, mi sono trovata in un nanosecondo in uno spazio temporale differente da quello in cui realmente sono, ma come sempre d'altronde, credo che tutto Bosco sia un buco nero di nulla in questo mondo, ma a me piace così. Il brano, la ritmica di un brano piuttosto scanzonato e diciamo da toni caldi, maggiore, eccetera eccetera, è una buona grip per parlare in maniera ossimorica dei disagi e delle barbarie della guerra. Sì, assolutamente sì, cioè non è dal semplice brano sulla pace, vedi John Lennon e Yoko Ono, che ci siamo tenute ben alla larga ovviamente in questa nostra playlist, perché va bene tutto ma basta con Imagine, ma soprattutto, ma anche basta con Give Peace a Chance, insomma anche, basta sì, con Yoko Ono soprattutto. Vabbè, in realtà non ci sta molto simpatica. Comunque, vabbè, direi di parlare del prossimo brano, perché sennò finiamo a parlare di Yoko Ono e secondo me non è il caso. Allora, lapidaria come sempre, Ilaria, non ti preoccupare che arrivo io. Allora, il legame tra musica e letteratura, come se come vi ricordate, se ci avete ascoltato lo scorso anno, insomma, non è che volevamo insegnarvi qualcosa, però volevamo confermare questa grande relazione amorosa tra la musica e la letteratura, anche perché noi non siamo buone a insegnare nulla, ecco. Così come esiste una letteratura di guerra ed è molto prolifica, esiste anche una letteratura musicale di guerra. Infatti si può anche dire che la linguistica ormai si concentri solo e soltanto una sua area, che appunto denominata sociolinguistica, nello studio appunto dei dialetti e della lingua utilizzata nelle canzoni di guerra. Ma non stiamo parlando, non è questo il caso. Il prossimo pezzo è di uno scrittore famoso, sì, per magari gli addetti al settore, che fu anche un grandissimo jazzista, William Piana Willy Groove. Io so che adesso non posso dirlo in diretta, ma ti stai facendo una cosa. Allora, si tratta di Boris Vian, che ha scritto un capolavoro che è intitolato La schiuma dei giorni, uno dei libri più belli che la nostra letteratura mondiale può vantare, ma soprattutto era un jazzista sopraffino. Il brano in questione è Le Deserteur, o Il Disertore, che è uscito nel 1954 ed è stato interpretato da numerosissime voci. Il succo, cosa dice nel Disertore Boris Vian sostanzialmente? Allora, parla della disfatta della Francia nell'ultima battaglia che segna la chiusura della guerra dell'Indocina, e tra sostanzialmente sì, questo soldato si rivolge, infatti la canzone, il brano inizia proprio con Monsieur le Président, che è il signor l'egregio presidente, al quale si rivolge un uomo chiamato alle armi. Quest'uomo non se la sente di andare in guerra, non vuole macchiarsi, stigmatizzarsi come un assassino, e soprattutto è arrabbiato, prova del rancore con la guerra, perché gli ha portato via l'intera famiglia. Tra l'altro, la prima versione italiana di questo brano fu tradotta da niente un po' di meno di uno che la leggerezza e la solarità ce l'ha sotto le scarpe, ovvero Luigi Tenco, che intitolò Padroni della Terra questa versione, però è rimasta per l'appunto inedita, e conosciamo appunto la versione italiana grazie a Ivano Fossati. E quindi io direi di andare. Tra l'altro è un brano che ha subito un sacco la censura, da quel che so, proprio a livello internazionale. Tuttavia però esiste Spotify, esiste una libreria free, e andatelo ad ascoltare, e noi vi proponiamo la versione di appunto Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, Je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Che carina, proprio cullate, capito? Sì, è una nenia molto piacevole, mm-hmm. E tra l'altro è anche un po' un pezzo, diciamo, come si dice in italiano? Perché io perdo la facoltà della parola quando cerco di spiegarmi? Forse perché Bosco è nato come tutto un grande scherzo, comunque è un brano atipico nella produzione di Vian, che essendo un jazzista si muove in dinamiche pazzesche, forti e piani, repentini. Però è un brano molto molto significativo, soprattutto anche perché veniva da una voce autorevole della cultura intellettuale francese dell'epoca. Siamo negli anni 50, siamo negli anni dell'esistenzialismo, siamo negli anni della ritorsione dell'io nell'io verso l'io. E quindi basta altruismo, basta guerra, pensiamo un po' ai fattacci nostri. Esatto, praticamente sì. Comunque, invece, il prossimo brano, l'ultimo di questa prima mezz'ora, che appunto... stiamo dedicando, come il resto dell'intera puntata, alle canzoni contro la guerra, non è di Pompei II, ma è stato eseguito da Pompei II ed è un brano famosissimo della tradizione popolare cubana che si intitola Guajira Guantanamera, che lo conosciamo tutti, Guantanamera, Guajira Guantanamera, la conosciamo tutti. Praticamente questa canzone è una canzone d'amore, ok? Che però mischia valori appunto lirici a valori incredibilmente patriottici. È una canzone molto particolare, completamente costruita sul ritmo del bolero, appunto cubano, e è dedicata appunto ad una contadina della città di Guantanamo, la Guajira Guantanamera. Ed è una canzone del XIX secolo, è stata eseguita da tantissimi, appunto abbiamo il brano che ascolteremo nella sua versione di Pompei II, ma ci fu anche José Feliciano, per esempio, e ha una storia molto una storia di diritto d'autore molto travagliata, perché non si riesce veramente a risalire al vero compositore, anche se comunque ci sono delle teorie, e nel 93 alla fine la canzone venne attribuita a José Fernández Díaz. Però, tuttavia, praticamente secondo alcune fonti, l'origine di tale musica, appunto, era il bolero creolo, che veniva usato nel 1830 addirittura nella zona di Guantanamo, e appunto stiamo parlando di Guantanamo, e quindi di conseguenza lo sfondo di questa canzone, che viene presentato anche all'interno del brano, è proprio quello delle lotte di indipendenza che appunto caratterizzavano questa colonia spagnola alla fine del 1800. E quindi mi sembrava molto carino riproporre una canzone che magari tutti noi pensiamo essere una canzone appunto sempre carina, Da ballabile, villaggio da turistico. villaggio turistico, quando in realtà noi magari ce l'ascoltiamo in villaggio turistico, ma in realtà sta parlando di lotte per l'indipendenza. Quindi, con molta tranquillità, preparate il vostro cocktail con ascolto assopito, però con ascolto assorto, non assopito, scusate, io non so più parlare, figuriamoci. L'italiano, Sì, ovviamente. vabbè, ciao, ma io e l'italiano è un rapporto che veramente io ancora non lo so, manco fossi Di Maio. Comunque, al di là di questo, ci andiamo appunto ad ascoltare questa canzone, magari leggetevi anche il testo nel frattempo e magari d'estate l'ascolteremo tutti con una mentalità completamente diversa. Guaira Guantanamera, eseguita da Pompei II. Yo tengo más que el leopardo. Look what's happening out in the streets, got a revolution, go to revolution. Siamo ritornati nella nostra pausa pubblicitaria con i Jefferson Airplanes e con Volunteers, e dal nome per l'appunto all'omonimo album del 69. Insomma, già questa data può suggerirvi che rivoluzione è in corso, la rivoluzione dei costumi, del pensiero e della sessualità. Tant'è che appunto nel 69, nella loro famigerata esibizione a Woodstock, i Jefferson Airplanes si esibirono proprio con questa canzone. Una canzone che compare, inoltre, io la conosco non perché ho presenziato la rivoluzione del 69, ma magari, e non ero nemmeno a Woodstock, ma magari, però è all'interno della colonna sonora di Forrest Gump durante la rivoluzione a Washington. E quindi mi ricordavo questo canto liberatorio, e allora l'abbiamo inserito nella nostra playlist di oggi, ovvero le canzoni contro la guerra. è molto interessante il testo di questa canzone, perché sostanzialmente è un inno generazionale. La generazione 69 infatti dice: una generazione, quella dei miei padri, è diventata vecchia, un'altra però ha un'anima. Solo non cercare di spingerla, non far sì che questa generazione abbia qualcosa da fare nella vita e smetti di piangere. Cioè c'era la consapevolezza che si era un po' allo sbaraglio, che tutte le certezze erano crollate e che quindi bisognava vivere alla giornata. Si è, insomma, siamo appunto davanti a una spaccatura, un'evidente cesura con la generazione dei padri del passato, e ci si sta buttando alla va là che vai bene in un nuovo corso degli eventi che ci ha portato appunto qui, ora, a Bosco. Quindi grazie anche a Jefferson Airplane, questa generazione non ha più uno scopo. Però bene, bene. Le cose non sono per niente cambiate, anzi forse si sono criticizzate parecchio. Basta piangere, lo prendiamo anche noi come monito, e seremme, insomma, si dice dalle parti mie. Beh, comunque devo dire che il tuo discorso ha sicuramente sollevato gli animi, Giuliana. Ma guarda, era proprio per questo che ho cercato di farlo. Io poi ho un grandissimo potere, per quanto... Potere! Fatto, ma, potere, sì, sono un po' calabrese oggi. Ho un grandissimo potere per sollevare gli animi, insomma, mi conoscete, sapete, anzi. Tra l'altro siamo anche un po' troppo serie oggi, però, insomma, cosa puoi? Puoi ridere della guerra, non lo so, no, noi lo facciamo anche. Infatti, non si può. E infatti, giustamente, non è che il brano dopo è un brano esattamente allegro, anzi, ovviamente mi è passato per la mente di mettere The Partisan di Leonard Cohen. Così. È un brano molto molto bello. Non è di Leonard Cohen, ma è un adattamento di High Zaret, l'adattamento in inglese, di un brano che si chiama Complan du Partisan, non so se l'ho detto giusto, di Hannah Marley, che praticamente riprende le parole originali del partigiano francese Emmanuel d'Astier de la Vigerie, detto Bernard. Allora, no, aspetta, scusatemi, io voglio aprire una parentesi su Emmanuel d'Astier de la Vigerie, detto Bernard. Perché? Vabbè, comunque, non vorrei distogliere, però effettivamente questa cosa mi ha un po' distratta dal tema della canzone del partigiano francese. Comunque, questa canzone appunto ha avuto un sacco di adattamenti. L'ultimo verso, è molto particolare la traduzione appunto di Cohen, perché l'ultimo verso, cioè nella versione appunto cantata da Cohen, l'ultimo verso della canzone originale diceva "Nous retrouvons dans l'ombre", che ovviamente l'avrò detto in un francese perfetto, al primo messaggio che arriva con scritto che l'ho detto male, giuro che smetto di fare Bosco. Tra l'altro, la nostra ascoltatrice durante la prima puntata aveva corretto la nostra pronuncia della femme, che noi abbiamo pronunciato ovviamente la femme. Quindi io ti invito, non mi ricordo il tuo nome, perdonami, a correggerci sempre. Sì, no, infatti, in effetti. Perché, sì, perché qua ce n'è da penna rossa da usare, quindi vai. Comunque, appunto, diceva "Nous retrouvons dans l'ombre", che significa rientreremo nell'ombra, viene ritradotto rovesciando il significato, e in inglese risulta "We'll come from the shadow", che dice appunto "usciremo dall'ombra", quindi si passa praticamente da una visione oscura e anche in un certo senso molto triste a una visione invece molto più luminosa e molto più positiva rispetto a quella della canzone originale. Io direi che ce la possiamo tranquillamente andare ad ascoltare, Leonard Cohen con The Partisan. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Questa era The Partisan di Leonard Cohen e mi piaceva, nella versione di Leonard Cohen, mi piaceva leggerci qualche parola che lui ha dedicato appunto riguardo questa canzone. Lui dice: ho imparato questa canzone da un amico quando avevo 15 anni, lui ne aveva 17. Suo padre era un sindacalista, stavamo lavorando in un campo a Sainte Marguerite nel Quebec. La cantavamo ogni mattina seguendo il canzoniere del popolo, dalla prima all'ultima pagina. Sviluppai la curiosa idea che i nazisti fossero stati sconfitti dalla musica. Questo è Leonard Cohen che parla appunto di quando ha conosciuto questo brano, che è una cosa molto interessante perché lui praticamente l'ha reinterpretata come un'allegoria generale della resistenza. È per questo che c'è diciamo tutta una situazione controversa per quanto riguarda la traduzione che poi lui ha utilizzato nella sua versione. Un'altra cosa che lui dice è: questa è una canzone che si intitola Il Partigiano. Quando nella canzone dico i tedeschi passarono a frotte il confine, poi i tedeschi arrivarono, non intendo realmente i tedeschi, capite? E quando dico che nella canzone presi il fucile e scomparvi, non intendo veramente che presi il mio fucile e scomparvi. Niente di quello che dico nella canzone va preso letteralmente, ma c'è qualcosa di vero in questo e proverò ad individuarlo ogni volta. Vorrei dedicare questa canzone alla memoria dei quattro ragazzi, i quattro studenti della Kent State University in Ohio, uccisi dalla polizia il 4 maggio del 1970. È una trasposizione di qualcosa che comunque, diciamo, noi vediamo anche molto lontano, come appunto le guerre mondiali, però allo stesso tempo può essere tranquillamente ripresa per situazioni assolutamente recenti e odierne. E mi sembrava particolare appunto riprenderla. Tutto qua. Perché anche perché oggi si fa sempre resistenza, resistiamo, esatto, verso altri soprusi, altre cose, ma la resistenza non muore mai. E a proposito di ispirazione e dichiarazioni, io volevo leggere questa che va a introdurre il prossimo brano. Fabrizio D'André dice: io della guerra ne ho parlato molto, ne ho parlato soprattutto nella guerra di Piero, attraverso i racconti che me ne faceva mio zio, il fratello di mia mamma, che si fece tutta la campagna di Albania.

mi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Giuliana. Ilona, abbiamo appena ascoltato Fabrizio De André con La guerra di Piero. E l'abbiamo cantata tutta. Tantissimo, esatto. Infatti, tra l'altro, De André ironizzava perché venne inserita questa canzone nelle antologie delle scuole elementari, diciamo, sin dagli anni 70-80, e De André, insomma, personalità piuttosto bizzarra e particolare, non bizzarra, eclettica, esattamente, ironizzava e diceva, bene, questo è un modo per far sì che La guerra di Piero venga odiata sin dalla tenera età, perché appunto veniva insegnata dai bambini. Ricordo questo bambino, allora, perché io feci l'animatrice all'oratorio, mi ricordo di questo bambino, è proprio tipo spettacolo, perché questo bambino la sapeva a memoria e la cantava in continuazione, ma ti giuro, H24, questo bambino faceva le cose e cantava La guerra di Piero, come se fosse una filastrocca, capito? Poi ovviamente a furia di cantarla perdi anche il significato delle parole. Effettivamente ci aveva un po' ragione, cioè questo bambino probabilmente non aveva veramente compreso il significato, che in realtà è molto più profondo. Esatto. E a proposito di significato più profondo, c'è una quartina all'interno della guerra di Piero che sostanzialmente recita così: lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Ricordiamo che questo è un pezzo del 64 inserito in un album del 66 che si rifà non solo a Rimbaud, no, al poeta maledetto, ma si rifà anche a un altro scrittore, a me molto caro, che scrisse delle canzoni in realtà. Nessuno lo sa, ma Italo Calvino nel 1958 scrisse Dove vola l'avvoltoio, pubblicato all'interno delle Cantacronache, credo si chiami così, esattamente, numero 2, che era una rivista, e poi musicato da non mi ricordo più, però Pietro Bottarelli. Grazie mille, perché ho 8 pagine internet aperte e come ben sapete io sono tecno repellente e quindi mi nutro solo di parole scritte e le scrivo e basta. Io appena vedo uno schermo vado in ansia, vero direttore? Comunque questa quartina è quindi ispirata al testo di Calvino, che recita invece: nella limpida corrente ora scendo un carpe trote, non più corpi dei soldati che fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio è una canzone antichissima, molto molto sconosciuta purtroppo. In realtà, insomma, l'allegoria dell'avvoltoio è un'allegoria che si può appunto facilmente evocativa e ampiamente, insomma, riconoscibile, perché appunto Calvino parla di questo avvoltoio che appunto cerca un nido e sostanzialmente parla appunto di questo, insomma, inizia con un panorama desolato in cui è finita la guerra e appunto è protagonista questo avvoltoio che cerca disperatamente un nido e vola via. Infatti il ritornello è piuttosto evocativo. Italo Calvino ha scritto solo questa canzone e lo capisco molto bene, perché diciamo che è molto molto bella, ma secondo me la musica non era proprio il suo mestiere, però è molto bello farvela ascoltare, insomma interessante farvela ascoltare, anche perché appunto se è nata la guerra di Piero è anche grazie a Italo Calvino, o no Ilona? Ebbene sì, ma la cosa interessante è, cioè, è questa unicità secondo me del brano, chissà perché ne ha voluto scrivere soltanto uno, cioè è questa la cosa che mi chiedo, se comunque o era una voglia di sperimentare o era una voglia di trasmettere in musica un argomento che di fatto viene molto ripreso appunto in musica, e questa puntata lo sta dimostrando. Cioè, la mia domanda da fare a Italo Calvino eventualmente, ipoteticamente in un'utopia, sarebbe appunto: perché ha scritto soltanto questa e perché proprio su questo argomento? Tu mi sai dare la risposta, perché in realtà sei l'incarnazione di Italo Calvino, vero? Esattamente, infatti ho delle sopracciglia molto folte, il corpo magro e sono nata a Cuba. Cosa vi dico? Vi dico che sostanzialmente questa canzone è collocata quindi sullo strascico degli anni 50. E se si può fare un parallelismo, se mi è lecito, con la produzione letteraria di Calvino, in realtà è perfettamente inserita all'interno della poetica. Calvino inizia con le scritture di guerra, con la trilogia appunto Sentieri di ragno,

song played on the radio station. I might get your song played on the radio station. You just might be a black Bill Gates in the making. I just might be a black Bill Gates in the making. I see it, I want it. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper. E siamo tornate qui su Bosco in questa seconda ora appunto della nostra puntata di questo martedì 23 gennaio, interamente dedicata alle canzoni contro la guerra, ed è iniziata la mezz'ora interamente dedicata al genere femminile. Esatto, come hanno vissuto le guerre le donne? Ve lo spieghiamo noi in mezz'ora. Sto scherzando ovviamente, però volevamo offrire una voce femminile e una prospettiva altrettanto femminile, anche se per noi la questione di genere non esiste, però era bello anche inserire delle voci candide e bianche, in particolare inserire anche la voce di Beyoncé, che con Formation, insomma, che candide e bianca proprio non è, intendo la voce. No, esatto. Ho detto una cosa molto brutta, devo essere sincera, però fa niente. Sì. No, ma in realtà c'entra tantissimo, e infatti sostanzialmente cosa fa Beyoncé? Nel 2016 fa uscire Lemonade, che è il suo ultimo album, e piazza questa Formation, che tra l'altro ha causato un boom di views, nonché una grandissima risonanza mediatica, compreso il video, perché il video è un capolavoro, infatti vi invito sì. ad andare sullo YouTube e a vedervelo tutto, perché si potrà dire che se ne dica di Beyoncé e di tutte quelle cose per cui lei, ok, c'ha i soldi eccetera eccetera, da che pulpito può uscire una diciamo una polemica contro certe situazioni sociali, andate a vedere il video, perché il video è un trionfo di riferimenti che pochissime persone sono in grado di riconoscere in un certo senso, perché ovviamente, cioè, io sono andata a prendermi l'elenco perché ho detto a cosa si riferisce questo, questo e quest'altro. Ho scoperto che ogni singolo frame di quel video è un riferimento a episodi che sono realmente capitati nella zona di Alabama, New Orleans, Texas, eccetera, eccetera, eccetera, appunto nei confronti, cioè, che riguardano appunto la situazione di razzismo che c'è all'interno di quei territori. Esatto, il video infatti è un mix di atmosfere creole, lo stile della cantante e vestiti fighissimi, cioè lei è firmata Gucci da morire, bellissimo. Ma cioè, Givenchy Dress, c'è cioè anche Givenchy. Cioè, e c'è un cameo di sua figlia che si chiama Blue Ivy. Inoltre, sostanzialmente possiamo fare una sorta di... Dentro ci sono anche le eBay, le gemelle eBay. È vero, assolutamente. Sì, ci sono anche loro. Tra l'altro questa canzone è diventata una canzone manifesto per un movimento che si chiama Black Lives Matter, che è appunto il movimento statunitense nato per la protesta contro le violenze della polizia nei confronti dei neri. Abbiamo citazioni che riguardano l'uragano Katrina, che ha praticamente raso al suolo nel 2005 tutto lo stato e ha causato circa 1800 morti. Inoltre abbiamo anche una rivendicazione personale che fa Beyoncé delle origini. Delle sue origini, infatti all'inizio della canzone dice mamma Louisiana, perché sua madre viene appunto dallo stato della Louisiana. È un vero e proprio manifesto, diciamo che è la canzone che la black culture ha preso in seno per protesta. Tra l'altro, dopo l'uscita del video è uscito anche un hashtag. Purtroppo oggigiorno, per fortuna, insomma, c'era a constatare un cambiamento, una rivoluzione radicale nel modo di comunicare. In 140 caratteri con una stringa di testo si può comunicare un mondo. Infatti nasce l'hashtag Black Girl Magic, ovvero Beyoncé portavoce della cultura nera sostanzialmente. Tra l'altro lei cita all'interno della canzone la parola nigga, che è tra l'altro vietato negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti d'America non può, la parola negro sostanzialmente è vietata. Infatti, per esempio, ho letto recentemente un caso di una casa cosmetica italiana, che non farò il nome, ha fatto uscire una linea di smalti, e uno di questi smalti è proprio denominato tipo Black Nigga, ed è stata insomma linciata telematicamente dal web, quindi insomma Beyoncé paladina dei diritti dei neri, e non per scherzo. Non per scherzo, assolutamente sì, ma infatti l'intero album Lemonade è molto incentrato su questo tema. Comunque ci sono tantissimi riferimenti alle sue origini, tantissimi riferimenti alla situazione sociale, poi ovviamente parla anche della sua vita personale e amorosa, che non è esattamente molto tranquilla, ma questo lo lasciamo un attimino perdere, lo eliminiamo. Però l'intero disco, l'intero album è un visual album, ricordiamo, che praticamente appunto a ogni brano è associato un corto, sostanzialmente tutti i corti si assemblano. Grazie. Si assemblano l'uno all'altro e viene fuori qualcosa di visivamente spettacolare. Tuttavia, ovviamente, questa abbiamo detto è la mezz'ora interamente dedicata al genere femminile, anche se genere femminile, appunto, abbiamo detto non lo vogliamo dire, però vabbè, e io purtroppo ho reminiscenze bigotte e ogni tanto mi escono ste parole che in realtà non vorrei dire. Comunque, ci andiamo ad ascoltare invece un altro brano che non è di PJ Harvey, ma è interpretato da PJ Harvey, si intitola Ballad of the Soldier Wives e dopo ne parliamo. Was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. Soldier's wife from Oslo over the sound. From Oslo they came. Silver gown, 'twas ended in town, oh, a silver gown, from Paris, city of light. listened to the soldier's wife from far off Russian land. From Russia there came just a widow's veil, from a death to be wed in a widow's veil in the far off Russian land. E questa era PJ Harvey con The Ballad of the Soldier's Wife, che ci sta tenendo compagnia in sottofondo, ed è praticamente un brano che appunto non è di PJ Harvey, ma lei lo ha reinterpretato, come gran parte della discografia di PJ Harvey, nel senso lei è una grande interprete sostanzialmente e riprende tantissimo brani di altri, però in questo caso non è, diciamo, un semplice brano quello che lei ha preso, ha reinterpretato, ma una poesia di Bertolt Brecht che riprende un romanzo, la poesia è del 1942 e si intitola, adesso ci provo, giuro ci provo, Und was becken des Soldaten Feib. Amici tedeschi all'ascolto, correggeteci pure voi perché non si sa mai. Esatto, esatto, perché io ci provo, nel senso, io mi ci butto, però se ce la può, ce la può. Comunque, appunto, Und was becken des Soldaten Weib, che appunto vuol dire Ballad of the Soldier's Wife, quindi la ballata della moglie del soldato, ed è ripresa da un romanzo che lui aveva sceneggiato nel 1927. Il romanzo si intitolava, adesso ve lo dico subito, Il buon soldato Schweik, ed è un romanzo di Jaroslav Hasek, oh raga, cioè qui grandi cose, anche questo del 1921-1923. E mi sembrava molto interessante appunto questa trasposizione dal tedesco, è stata tradotta tantissimo tra l'altro, tipo c'è la versione italiana di Roberto Fertonani appunto, c'è anche una versione francese che, di cui non mi metto a dire il titolo, però appunto era anche una versione inglese, vabbè, comunque è stata tradotta tantissimo, e la musica, ricordiamolo tanto, perché la musica è di Kurt Weill. Quindi perfetto. Essere, sì, perfetto. Ma, tutto perfetto. Ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra grande della musica, e con un brano che appunto, diciamo, è agli antipodi di quello che ha fatto un po' Beyoncé in Formation, nel senso che questa grande della musica appunto sviluppa un tema molto molto importante, che è appunto quello che gira attorno al fiume Mississippi, ed è Nina Simone con Mississippi Goddamn. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi Goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi Goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about due. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. You're just plain rotten. You thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts. Un po' mi dispiace continuare a parlare sopra Nina Simone, però il fatto è che voglio veramente parlare un attimino di questo brano, che secondo me è molto importante. È appunto questa incredibilissima canzone che continua ad accompagnarci in sottofondo. Ricordiamo essere Mississippi Goddam di Nina Simone, che potete veramente trovare un po' ovunque, nelle sue versioni live ancora meglio. Fu scritta nel 1963, l'indomani dell'attentato razzista alla 16th Street Baptist Church di Birmingham in Alabama, dove trovarono purtroppo la morte per mano dei suprematisti bianchi quattro ragazzine afroamericane. I responsabili, tra l'altro, perché si sa che la giustizia ha sempre la meglio, i responsabili furono condannati all'ergastolo 40 anni dopo. 40 anni hanno dovuto attendere la giustizia queste ragazzine. Comunque questa canzone non è soltanto dedicata a queste quattro ragazzine, ma anche all'assassinio di Medgar Evers, che appunto venne assassinato il 12 giugno del 1963 ed era un attivista dei diritti civili, ed è uno dei tanti omicidi principe che vennero appunto perpetrati dai difensori della supremazia della razza bianca. Un altro brano che parla appunto di questo episodio è Only a Pawn in Their Game di Bob Dylan, che se volete ve lo potete andare tranquillamente ad ascoltare. Ma il prossimo brano invece è è finito intanto Nina Simone. Il prossimo brano in realtà invece è una reinterpretazione che ci andiamo ad ascoltare di Ginevra Di Marco nel suo ultimo album, che sono tutte cover di Mercedes Sosa, e il brano che appunto ci andiamo ad ascoltare è adesso ve lo dico perché ha un titolo non indifferente: Solo l'epido adios. Il brano è stato scritto da Leon Greco e poi era interpretato appunto da Mercedes Sosa, e praticamente questo brano parla dell'inutile strage di giovani vite che costò all'Argentina e alla Gran Bretagna durante la guerra delle Malvinas Falkland. Però la guerra in realtà è dell'82, ma la canzone è di 4 anni prima, che però la canzone praticamente parla di una guerra imminente, quindi sostanzialmente c'era il sentimento di presagio di questa di questa guerra, e fu appunto con questa guerra del Malvinas Falkland che e con la fine della sanguinaria dittatura militare che la sua popolarità appunto di questa canzone divenne immensa, un vero e proprio inno che segnò quei tragici momenti della storia dell'Argentina. La canzone, tra l'altro, Solo l'epido adios, fu censurata nel 78 dal governo militare, ma poi dichiarata nell'82, sempre dallo stesso governo, canzone di interesse nazionale per la pace. Pensa un po' a te, come è in grado una canzone di far cambiare gli animi. Io direi che ce l'andiamo ad ascoltare prima di andare con la nostra ultima mezz'ora di Bosco di questo martedì 23. Ginevra Di Marco che reinterpreta Mercedes Sosa con Solo l'epido adios. Solo le pido a solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. È un mostro grande, picchia forte sulla povera innocenza della gente. Solo le pido a Dios che la guerra non mi sia indifferente. È un mostro grande, picchia forte sulla povera innocenza della gente. È un mostro grande, picchia forte sulla povera innocenza della gente. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. War Pigs e Black Sabbath dal loro primissimo album Paranoid del 1970. Infatti noi siamo qui approdati all'ultima mezz'ora in compagnia di Ilona e Giuliona, per fortuna o per sfortuna lo decidete voi, ma il tema di che stiamo sviscerando è proprio canzoni di guerra. Abbiamo deciso di aprire quest'ultima parentesi bosconiana con proprio War Pigs dei Black Sabbath, canzone che appunto risale a un album che è pietra miliare dell'hard heavy, cioè l'hard and heavy metal. Siamo nel 1970 e questa canzone doveva essere la title track proprio dell'album, ma i discografici decisero di optare per un Paranoid molto più rassicurante. Perché? Perché i maiali della guerra erano proprio i maiali che avevano voluto la guerra in Vietnam. Tra l'altro, se non sbaglio, Ozzy Osbourne di questa canzone dice più o meno così: in questo periodo sento un sacco di voci bianche che cantano il blues nero. Ecco, questa canzone è un blues un po' diverso, però io ho sperato di cantarlo come potrebbe farlo un afroamericano sostanzialmente. Ovviamente la guerra a cui fa riferimento Ozzy Osbourne è quella in Vietnam, siamo negli anni 70, e tra l'altro questa canzone venne anche tradotta in spagnolo nella versione di Gustavo Sierra Fernandez. Insomma, sì, io sono super carica per i Black Sabbath, non lo so, mi piacciono tantissimo da sempre, un po' Ozzy Osbourne, insomma, quel ruolo nella mia vita che ha anche Renato Zero, cioè di spaventarmi, perché io ho la fobia di Renato Zero, non lo riesco a vedere in nessun tipo di rappresentazione cinematografica, cioè scusate, televisiva, e lo stesso vale per Ozzy Osbourne. Diciamo che però a differenza di Zero non è un sorcino e soprattutto ha stile a pacchi. Bene, bene, bene, direi che appunto questo brano ti piace un sacco. Madonna. Comunque, intanto noi sottofondo abbiamo appunto sempre con noi War Pigs dei Black Sabbath, ma quello che ci stiamo per andare ad ascoltare è in realtà un brano un pochettino diverso, che parla comunque di una situazione appunto di guerra, perché è l'argomento del giorno, però parliamo di una guerra che ancora non abbiamo citato, che è appunto la guerra in Palestina. Il brano è Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, e praticamente è tratto dall'album Albert McFrey del 1973, e il contenuto politico dice Stratos, secondo me c'è anche senza che io dica, noi facciamo un pezzo per i compagni palestinesi. In radio non ci hanno mai trasmessi, chiaramente tutti avevano dei blocchi morali, si scandalizzavano perché abbiamo fatto un pezzo che si chiamava Settembre Nero. Tra l'altro il brano è introdotto da una poesia araba che in realtà è stata scritta appunto da una ragazza egiziana. Appunto il testo appunto è in dialetto egiziano, e in effetti alla fine della parte in arabo la ragazza che appunto recita indica come autrice del testo Mar Masriya, che vuol dire letteralmente un'egiziana. Mi faceva piacere in realtà leggere un attimino la traduzione appunto della poesia egiziana recitata all'inizio, perché giustamente io non so l'egiziano, non so tu Giuliana, mi sto chiamando Giuliana oggi. Vabbè. Giuliana sa tutte le lingue del mondo, come ha potuto dimostrare a più riprese, insomma, in bosco. Comunque te la leggo. Brava. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare nel sangue con l'umanità. Gente scolorata quasi tutta uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non vuol morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità. Non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'umanità. Ed è molto interessante che praticamente l'introduzione è l'esortazione appunto che la ragazza egiziana rivolge al proprio amato di abbandonare le armi e la rabbia, che è una peculiarità della guerra, per vivere con lei un'esistenza d'amore in una rassicurante atmosfera di pace. E queste sono appunto le parole di Gianni Costa. Comunque io direi che possiamo tranquillamente andare ad ascoltarci il brano, che ripeto si intitola Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area. بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك، بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب، سيب الألم، سيب السلاح، سيب السلاح وتعالى، تعالى نعيش، تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب، سيبوا الألم، سيبوا السلاح وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام. مصرية. Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. E Giuliona, come al solito, Ilaria fa gli strafalcioni, vero? Perché non ce la può. Comunque, niente, praticamente... Ma questa, no, questa si chiama cifra stilistica, non è uno strafalcione. Nel mio caso, purtroppo, è proprio una cifra stilistica, perché ho erroneamente letto il testo della canzone e non la traduzione del brano in egiziano. Che me ne sono accorta dopo, chiedo perdono. Comunque... giustamente per correttezza vi leggo appunto la traduzione del testo in arabo, che dice: mio amato, Giuliana te la dedico, mio amato, grazie. Con la pace ho depositato i fiori dell'amore davanti a te, con la pace ho cancellato i mari di sangue per te. Lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni, vieni e viviamo, mio amato, e la nostra coperta sarà la pace. Voglio che canti, oh mio caro, occhio mio, luce dei miei occhi vuol dire. E il tuo canto sarà per la pace. Fai sentire al mondo, oh cuore mio, e di a questo mondo, lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere la pace con me. Arrivo subito. No, no, è molto molto bello, meravigliosa. Ci tenevo a fare questa correzione perché è veramente un testo molto bello. Mi sono sbagliata, sono andata sparata, ero leggermente distratta, mi dispiace. Ma cambiamo leggermente pagina, nel senso che passiamo dagli Aria a un altro gruppo che non ci è indifferente, sono appunto gli R.E.M. E la canzone è una canzone famosissima, antimilitarista, e si intitola Orange Crush. In particolare qui si fa riferimento alla guerra appunto del Vietnam, in quanto l'agente arancione era un particolare composto chimico che disintegrava la vegetazione in modo da stanare i Viet Cong. E infatti c'è un verso che dice "We are agents of the free" ed è un riferimento a questi agenti arancioni sarcasticamente definiti agenti della libertà. Il composto era anche più dannoso del napalm ed ha lasciato danni irreparabili sia sugli uomini che sulla natura. Praticamente questo appunto è... tra l'altro nel Green War Tour Michael Stipe introduceva questa canzone con parole di scherno contro i militari. Be all that you can be in the army è una presa in giro ironica nei confronti dello slogan dell'esercito, che con quelle parole incita i giovani americani all'arruolamento. Significa: nell'esercito puoi realizzare tutti i tuoi desideri, anche quello, a questo punto mi viene da dire, di distruggere completamente la vegetazione del Vietnam. Ma mi viene da dire, non hanno avuto la meglio. Comunque, al di là di questo, questa piccola ironia becera, come sono solita fare, appunto il brano che ci andiamo ad ascoltare è Orange Crush degli R.E.M., è il penultimo brano di questa mezz'ora, e dopo ci appresteremo a salutarvi anche per questo martedì 23 gennaio. Meraviglioso! Meraviglioso! Orange Crush degli R.E.M. Follow me, follow me, got my... Tu non l'hai cantata, io sì. No, io non l'ho cantata perché ero perso nell'azzurro dei cazzi miei. Stavo pensando a tutte le canzoni che apportano all'interno dei loro testi dei nomi di diserbanti o tossicidi. Come si chiamano? Pesticidi, scusa. Pesticidi. Pesticidi, so sorry. E niente, quindi ero persa in questa divagazione, come sempre, Bosco è una grande divagazione. E niente, stavo pensando che comunque siamo giunti al termine, che sono triste e che dopo questa puntata sarò ancora infinitamente più sola. Oh mio Dio, che sei carina. Lo so, Fiore, lo so. Ma non ti preoccupare, perché noi torniamo ogni martedì qui su Radio Città Fujiko dalle 15 alle 17. Martedì prossimo siamo sempre qui. E tra l'altro vi ricordiamo che se per caso vi siete, se per caso che adesso il mondo, io mi sposto un po' più in là, se per caso vi siete persi una puntata di Bosco, ok, potete andarvela a recuperare sul sito di Radio Città Fujiko, sulla nostra miticissima pagina Facebook, andate a mi piacciarcela, perché pubblicheremo costantemente i nostri podcast di settimana in settimana con tanto di playlist che riguarda la puntata, così se non volete, se non vi ricordate un titolo di una canzone che vi è piaciuta, eccetera, eccetera, ve lo potete andare a vedere lì e poi ve la cercate e ci fate quello che volete, la cantate, la scaricate, no, non la scaricate, legalmente, ma soprattutto magari ve la andate appunto a riascoltare, se vi è interessato vi andate a leggere i testi, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, bellissimo. Siamo, sì, questa grandissima trasposizione. Bellissimo, bellissimo. E, siamo appunto giunti al termine di questa puntata di Bosco, che abbiamo interamente dedicato alle canzoni contro la guerra. Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo detto a inizio puntata, perché settimana scorsa è venuta a mancare appunto Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan, voce e appunto leader, anima. Anima. Cuore dei Cranberries, e praticamente non potevamo non ricordare quello che è stato appunto il brano simbolo appunto dei Cranberries, il brano che ha portato appunto anche un po' alla consapevolezza di quello che fu e che fece l'IRA tra Irlanda e Inghilterra, ed è appunto Zombie dei Cranberries. Non è l'unico brano, perché come sappiamo ci fu anche Sunday Bloody Sunday, esatto, dei nostri amici U2 con il nostro mitico Bono Vox, ma dei due forse questo è quello che ci rappresenta di più, anche un po' per la nostra generazione, dobbiamo essere totalmente sinceri. Tra l'altro una cosa molto molto curiosa è che all'interno di un'altra canzone, insomma, che è sempre appunto di, non mi ricordo, aspetta, c'è un riferimento in entrambe le canzoni, ovvero Sunday Bloody Sunday e Zombie, a The Town I Love So Well, scritta nel 73 dal musicista irlandese Phil Coulter. Ed è bellissima questa intertestualità, perché entrambe le canzoni citano Bombs and Tanks, che è, e Guns, che sono appunto pistole, bombe e carri armati, che vanno a descrivere perfettamente attraverso l'immagine quella che era la situazione di appunto vessazione subita dall'Irlanda del Nord. Le guerre di indipendenza dell'Irlanda e appunto la vessazione ricevuta dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, diciamo che è un argomento ancora un po', secondo me, sotterrato. Bisognerebbe riportarlo alla luce, bisogna sensibilizzare appunto l'opinione comune circa appunto questa cosa qui. Ho detto appunto 8 volte, quindi appunto io tirerei la parola appunto. No, sì, è assolutamente vero, perché io mi ricordo che un po', perché purtroppo quando si studia storia al liceo, alla fine è veramente raro che qualcuno col programma riesca a superare la Seconda Guerra Mondiale, e io vi dico che sono arrivata soltanto alle cause al liceo, perché la mia professoressa non era esattamente molto celere nello spiegare. Comunque, al di là di questo, è vero che purtroppo certe vicende vengono appunto lasciate alla storia, ma fortunatamente c'è la musica che ce le ricorda e ce le riporta alla mente. In questo caso, appunto, la canzone fu composta da Dolores O'Riordan nel 1993, quando sono nata io, tra l'altro, e praticamente si riferisce è stata scritta praticamente durante il tour inglese della band irlandese in memoria di due ragazzi, Jonathan Ball e Tim Perry, che sono rimasti uccisi in un attentato dell'IRA a Warrington in Inghilterra il 20 marzo del 1993. Detto questo, io direi che vi salutiamo. Assolutamente, grazie per averci ascoltato, grazie alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, e se vi siete affezionati, cosa improbabile, ma secondo me un po' possibile, ecco, ci trovate anche su una web radio che si chiama Bud il sabato alle 17.30 con un programma tutto dedicato alla musica emergente. Noi con Bosco ci rivediamo ci risentiamo martedì prossimo alle 15 con un altro puntatone spumeggiante. Vi promettiamo dislessia palate e un uso improprio dell'italiano. Ebbene sì. Quindi, Zombie dai Cranberries, un bacione, a martedì prossimo. Ciao! Must be mistaken. It's the same.